Letture di Radio 24. Le immagini della bara di Priebke presa a calci non hanno scatenato una grande indignazione. C'è qualcosa che non va nella capacità dell'Italia nel fare i conti con il proprio passato, commenta Stenio Solinas su Panorama, dato che non tiene conto che il fascismo fu una catastrofe morale prima che politica. All'indomani dello scempio di Piazzale Loreto, Sandro Pertini parlò disgustato di macelleria messicana. 70 anni dopo, il furgone mortuario di Erich Priebke, preso a calci, non solleva che isolate proteste all'interno di un coro di fiero consenso. Ci si vergognava ieri di aver vilipeso il super tiranno morto, ci si gloria oggi di non far seppellire il più modesto carnefice defunto. C'è qualcosa che non quadra nella memoria dell'Italia, ovvero nella capacità di fare i conti con il proprio passato. Se non si parte da qui, la rimozione e trasfigurazione del fascismo, per essere chiari, non si va da nessuna parte. Che allora una guerra perduta riguardasse tutti, l'aveva capito perfettamente, ma invano, Benedetto Croce, in quel suo discorso contro la firma del Trattato di Pace del 1947. Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l'abbiamo perduta tutti, disse Croce. Anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Nel suo opporsi alla firma del trattato, il filosofo dell'idealismo si opponeva non solo all'idea, infelice e infame, che la Seconda Guerra Mondiale l'avesse persa il fascismo e l'avessero vinta invece gli italiani, ma anche alla pretesa dei vincitori di un giudizio morale e giuridico dell'Italia e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi. Croce rifiutava insomma, fin dal suo primo apparire, la nuova morale politica che sarebbe nel tempo divenuta dominante e senza opposizione possibile. Era il lavaggio del carattere, quello che si voleva, e che a 70 anni appunto di distanza ci rimanda l'immagine di un paese senza caratteri, privo di dignità e di orgoglio. Finis Italiae. Il fatto è che fra il settembre del 1943 e l'aprile del 1945 si era consumata in Italia una tragedia di proporzioni morali spaventose. Sarebbe stato necessario un esame di coscienza spietato, individuale e collettivo. Prevalse invece il vizio vitalico della furbizia. Trionfò il cinismo dolente di chi non ha mai saputo credere in nulla. Per lo storico della Resistenza e della Guerra Civile, Claudio Pavone, ancora oggi considerare l'8 settembre come una mera tragedia o come l'inizio della guerra di liberazione è una linea che distingue le interpretazioni d'opposte sponde. Non è così. Non è lì lo spartiacque riduttivo fra fascismo e antifascismo. È fra chi si rende conto che la catastrofe abbattuta sia nazionale, morale prima che politica. Riguarda il carattere, incide sulla nostra immagine futura, segna il riemergere di vizi antichi. E chi preferisce anche in buona fede non vedere, rifugiarsi nella complicità naturale degli istinti primari, sopravvivere innanzitutto, riordinare i più rassicuranti cliché di un'italianità buona, umile, sottomessa, alla quale per fortuna sono negati destini più grandi, ma più tragici. Elevato il fascismo a rango di nemico assoluto, incarnazione del male, tumore improvviso sul corpo sano di una nazione che chirurgicamente e da sola ha provveduto alla totale estirpazione, archiviato l'8 settembre come l'inizio di un processo di liberazione, tutto è dunque pronto per raccontare l'epifania della lotta armata contro il mostro in camicia nera. 70 anni dopo, di questo passato che non passa, una bara presa a calci è la logica conclusione. Avete ascoltato la lettura di alcuni stralci dell'articolo di Stenio Solinas, Morirà mai l'antifascismo? Da Panorama del 6 novembre. Letture di Radio 24. A 10 anni dalla scomparsa di Giuseppe Pontigia vengono pubblicate per la prima volta le trascrizioni di 3 video interviste che Rossana Dedola aveva realizzato in 3 anni consecutivi presso la casa milanese dello scrittore. Peppo, come era affettuosamente chiamato, racconta la sua infanzia trascorsa ad Erba, nel Comasco, la passione per i libri ereditata dal padre e poi l'incontro con Elio Vittorini, che gli aveva consigliato di lasciare il lavoro in banca per dedicarsi interamente alla scrittura. Nella prima di queste interviste, realizzata nel 2001, Pontigia parla anche del difficile rapporto con il figlio disabile, che aveva raccontato l'anno precedente in quello che sarebbe stato il suo ultimo romanzo, Nati 2 volte. Il titolo del libro, dal quale 3 anni dopo Gianni Amelio avrebbe tratto il film Le chiavi di casa, si riferisce al fatto che spesso per i disabili è necessaria anche una seconda nascita, quella nella quale finalmente vengono accettati per quello che sono. Un'altra delle ragioni che mi induceva a non affrontare il tema dell'handicap era l'angoscia che mi provocava. Fino a 15 anni dalla nascita di mio figlio, il tema dell'handicap lo vivevo come un punto di fuga. Non mi sottraevo alla responsabilità, anche se ci sono spinte centrifughe nella mia vita e anche nel racconto. Però sostanzialmente non abbandonavo il posto, ecco, nel senso proprio quasi di combattimento. Si è preso cura di suo figlio direttamente? Lo accompagnava a scuola? La parte più faticosa l'ha svolta mia moglie, la parte più drammatica. Io parlavo con gli insegnanti, facevo fronte alle spese che sono improvvisamente diventate enormi, perché allora non c'era un'assistenza pubblica adeguata. E poi psicologicamente cercavo di essere presente, però al tempo stesso mi riservavo degli spazi di libertà, perché sia per egoismo, sia perché altrimenti non avrei neanche saputo assolvere. E suo figlio come ha vissuto questa sua presenza un po' ambivalente? Ma si è reso conto che io, soprattutto nei primi anni, lo accettavo da un lato e lo rifiutavo dall'altro. Lo accettavo verbalmente e anche in alcuni momenti affettivamente. In altri casi fuggivo. Se ne rendeva conto, tant'è vero che una delle frasi che ricorrono in un capitolo intitolato «Non te lo aspettavi» è proprio il segno della sua percezione. Lui si rendeva conto che io in fondo dubitavo delle sue possibilità di recupero. Non aderivo pienamente a lui e me lo diceva. La svolta è stata intorno ai 15 anni, quando io non ho più pensato a quello che mancava a mio figlio, ma a quello che mio figlio aveva. E allora, sia nella realtà sia nel romanzo, c'è questa metamorfosi che il padre non solo accetta il figlio, ma lo ama, se ne innamora. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Rossana Dedola, Giuseppe Pontigia, La letteratura e le cose essenziali che ci riguardano. Avagliano Editore, 228 pagine, 28 euro. L'Italia è come un paziente diventato obeso per aver ingerito troppe pillole di settore pubblico, scrive Luigi Tivelli in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del mensile Formiche. Restituire ai privati attività ora gestite dallo Stato potrebbe dare un nuovo slancio al settore imprenditoriale e favorire l'Italia dei distretti, senza però perdere di vista la sussidiarietà, che potrebbe trarre un beneficio dalle nuove forme di integrazione tra pubblico e privato. La classe politica e la stessa classe di governo dimostra di non avere alcun progetto serio a medio termine sullo sviluppo socio-economico e sullo stesso futuro del paese. Eppure, dopo un ventennio in cui la crescita media annua del PIL è stata la più bassa tra i paesi OCSE e dopo 6 anni in cui abbiamo perso più di 8 punti di PIL, il paese ha più che mai bisogno di un nuovo rinascimento. L'Italia è il paese delle 100 città. E delle centinaia di distretti industriali ben radicati nei loro territori, quasi sempre fatti di piccole e medie imprese, in molti casi con un forte orientamento all'esportazione che ne sostiene la competitività. Molti di questi distretti sono caratterizzati da un forte legame con le tradizioni e la cultura del territorio di riferimento, alimentato anche da fondazioni bancarie o banche locali. È da questo brodo di cultura che bisogna ripartire per alimentare e sostenere il recupero di competitività e la crescita. Penso ad esempio a imprese che possano nascere dalla valorizzazione imprenditoriale di settori sin qui abbandonati o malauguratamente affidati a un settore pubblico sprecone e inefficiente, come quelli dei beni ambientali e dei beni culturali. Quello che distingue l'Italia dagli altri grandi paesi europei, anche nei territori in cui il tessuto imprenditoriale privato è dinamico, vitale e competitivo, è che l'imprenditore rischia sempre di cadere in quella sorta di triangolo delle Bermuda che uno Stato pesante e oppressivo gli ha messo intorno. I tre lati di questo triangolo perverso, su cui tante imprese si sono inabissate o rischiano di inabissarsi, sono una spesa pubblica massiccia che supera il 50% del PIL, una tassazione effettiva che va oltre il 55% del PIL e una pressione burocratica oppressiva per le imprese. La ricetta per favorire la liberazione delle energie imprenditoriali migliori nei territori e nei distretti è meno spesa pubblica e quindi meno tassazione e, ultimo ma non meno importante, forte semplificazione burocratica. Ma questo di per sé non può bastare. Il territorio italiano non vede solo i distretti e una fittissima costellazione di 8.000 comuni. Accanto a tale costellazione ci sono più o meno altrettante municipalizzate o enti pubblici che non brillano certo per efficienza e qualità del servizio. Di tanto in tanto viene proposta dal governo, o addirittura passa in Parlamento, una legge che prevede la liberalizzazione o la privatizzazione dei cosiddetti servizi pubblici locali, ma poi, per qualche cavillo, tutto si blocca. Eppure, nella nostra Costituzione, è scolpito il concetto di sussidiarietà orizzontale, che significa che il settore pubblico deve fare solo quelle cose che i privati non possono fare meglio e a costi minori. Restituire ai privati, alle cooperative, all'associazionismo, attività ora svolte da enti pubblici o municipalizzate, genererebbe un nuovo ossigeno imprenditoriale. L'Italia è come un paziente molto obeso per il fatto di aver ingerito troppe pillole di settore pubblico e di troppo Stato. I paesi possono anche morire. Perché troppo Stato significa troppa spesa pubblica, troppe tasse, troppo deficit, troppo debito pubblico, eccetera. Pertanto, ripartire dai territori, dalla cultura dei territori, ricostruire nuove filiere produttive, puntare alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, ricercare il recupero di competitività e il rafforzamento dell'orientamento all'esportazione è la via giusta. Ma è una via che può funzionare solo se contemporaneamente, operando sia al centro che negli stessi territori, si mette a severa dieta il settore pubblico e si spostano man mano pezzi del confuso mosaico del settore pubblico verso il privato. Questo progetto genererebbe anche nuove forme di integrazione e collaborazione fra pubblico e privato e nuove opportunità imprenditoriali, soprattutto, ma non solo, per i soggetti insieme più deboli e più vitali della società italiana, i giovani e le donne. Avete ascoltato la lettura di alcuni stralci dall'articolo di Luigi Tivelli «Stato piglia tutto? La soluzione sussidiarietà» dal numero di novembre della rivista Formiche. 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso e 3 cappelli dell'Espresso, con il suo albergo-ristorante Villa Crespi sul Lago d'Orta, Antonino Cannavacciuolo è il gigante buono che molti hanno imparato a conoscere dalla serie televisiva Cucine da Incubo. Nel suo libro In cucina comando io, oltre a svelare le ricette dei suoi piatti più famosi, lo chef originario di Vico Equense ripercorre le varie tappe della lunga gavetta fatta per arrivare al successo. Un percorso iniziato da bambino con l'ambizione di imitare il padre, come racconta Gianluca Biscalchin nella prefazione al libro. Antonino è nato vedendo il padre indossare una giacca bianca da cuoco. Ed è cresciuto all'ombra di un uomo dall'etica di roccia, ben consapevole di quanto questo lavoro sia faticoso, anche se bellissimo. Il piccolo Tonino, quando la mamma era impegnata, seguiva il papà nei grandi ristoranti. È cresciuto in mezzo alle brigate di cucina. Ha visto fin dai primi anni questo mondo di fuoco e di fatica, dove il padre giganteggiava. Per il piccolo Antonino era un eroe, da emulare. Per questo a 13 anni e mezzo ha dichiarato: «Voglio fare il cuoco». Il padre non era d'accordo. «Tonino, guardati il calendario. Mentre tutti gli altri festeggiano, tu lavori». Ma non c'è stato niente da fare. A quel punto il padre ha tentato almeno di formare un professionista consapevole. Lo chef racconta: «Quando ho fatto la prima stagione ho chiesto: "Papà, quanto mi danno?" E lui mi ha risposto: "Tonino, bisogna capire quanto dobbiamo pagare noi". perché tu per loro sei un danno, non un guadagno. Con un padre così si impara l'umiltà, il senso dei propri limiti e la voglia di migliorare. Sempre, senza sentirsi mai veramente arrivati. Se il papà ha forgiato la struttura etica di Cannavacciuolo, la madre ha portato in dote al figlio la sensibilità e ha svelato al piccolo Tonino il segreto delle donne del sud, la dedizione totale al sacro rito del cibo, unita a una conoscenza intima della materia prima e della perizia assoluta nell'esecuzione. Ora, con l'esperienza di un 2 stelle Michelin, lo chef guarda la madre con occhio critico e la giudica una cuoca eccellente, una professionista. La signora Cannavacciuolo è un portento. Sta attenta alle cotture, al colore, cose che noi facciamo nell'alta ristorazione. Mia mamma lo fa a casa, naturalmente, senza aver mai fatto corsi né scuole. Il suo capolavoro è la parmigiana di melanzane. Quando lo chef ne parla ride con gli occhi e scuote la testa come per dire «è una cosa fuori di testa». Ecco il procedimento. Prende 2 fette di melanzana già fritte e ci mette una fettina di mozzarella dentro. Poi le passa nell'uovo e le frigge di nuovo. Fa una farcitura già farcita. Ripete l'operazione e alla fine monta il tutto come la classica parmigiana a strati. Se per una parmigiana normale uno ci mette 1/2 ora, mia mamma ci mette 1 ora e mezza. Cose da pazzi. Questa è la cultura di casa Cannavacciuolo. E questa è la scuola più importante per uno chef che si divide tra rigore e sensualità. Il padre lo ha forgiato come professionista, instancabile, preciso, attento, con l'ambizione di essere ogni giorno migliore di quello precedente. La madre ha invece svelato al bambino curioso i segreti dei profumi, dei sapori, delle cotture, delle preparazioni. Se una parmigiana può essere ancora più buona, perché non perdere 1 ora in più? Perché non impegnarsi al massimo nella ricerca della bontà? In termini psicanalitici, i genitori di Antonino hanno svolto egregiamente i loro compiti. Il padre ha incarnato la sicurezza, la madre la dolcezza. Per questo, nei piatti dello chef, oggi si trovano insieme rigore e bontà legati insieme da un grande senso dell'equilibrio. Sono ricette nate dalla ricerca ossessiva di quella bontà rassicurante che tutti i bambini cercano nel cibo e che gli adulti sperano di poter provare ancora una volta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Antonino Cannavacciuolo, In cucina comando io, Mondadori, 336 pagine, €16,90.